Ma che bello. Non ti dà fastidio qua, eh? No. Allora, considero conclusa con la lezione dell'altra volta la questione continuità, discontinuità e, e paradigma dell'incompletezza. Abbiamo massacrato Galen, Galimberti, Cartesio, un po' di gente, le ho fatte fettine, messo un po' di cipolla sotto, rosolato in padella, adesso sono commestibili, nel senso che sappiamo. Abbiamo tolto tutta la parte velenosa, che in realtà è la maggior parte del loro pensiero. Allora, non so se l'avete fatto voi, questo è un tipo di lavoro che ho fatto io per me l'ho fatto, quindi sono a posto. Mi considero almeno temporaneamente mondato da ogni tentazione discontinuista. Mi sento parte del regno animale e della natura. Mi sento una forma un po' particolare di mammifero, un primate che parla. Obiettivamente nessun altro primate parla. Basta. Allora, oggi cominciamo invece ad affrontare la seconda questione relativa ai processi culturali. E cioè la ricerca della verità. Affascinante compito che tutte le culture hanno sempre. Affascinante compito che tutte le culture hanno sempre, che verbo può reggere un complemento oggetto come compito? Hanno sempre ricercato, un compito non si ricerca, hanno sempre espletato, hanno sempre compiuto, su cui si sono sempre esercitate. Non c'è cultura al mondo che non possieda un proprio concetto di verità. Allora, il problema della verità, che è il problema sulla quale si basa la nuova dicotomia, la nuova contrapposizione che voglio proporvi da oggi in poi, e cioè quella relativismo, universalismo o dogmatismo, scetticismo, ovviamente ha due aspetti che sono facilmente individuabili. Se voi pensate bene, nella gran parte delle frasi in cui voi usate la parola verità, ci sarà in genere sempre anche il verbo dire, vero? In molte. Non ha detto la verità. Hai detto la verità? Se tu dicessi la verità, noi due ci saremmo già mollati da quel tempo. Dimmi la verità. Quindi, da un lato, la verità è qualcosa che si dice, no? Quindi è qualcosa di relativo a noi esseri umani, agenti, a noi soggetti. C'è qualcuno che dice la verità o che non dice la verità. Ma se poi, quindi, diciamo ci siamo, come dire, la verità ha sicuramente un lato soggettivo. La verità è qualche cosa che il soggetto enuncia o che può scegliere di enunciare o di non enunciare. Comunque, la verità ha un lato soggettivo. Però quando io dico la verità, di solito come faccio a sapere che qualcosa è la verità? Nelle società moderne c'è un bel criterio, forse un po' pericoloso, ma qual è il criterio principale della verità? Dillo. Condivisione. Con la? Condivisione. No, certo, finisce con visione, ma non è condi. Le prime quattro lettere sono diverse. È vero, l'ha detto la televisione. Scherzate. Non è questo il criterio di verità principale per per te, no, ma te, se, allora qua dentro ci saranno ci sono in gran parte delle cose statistiche, ragazzi. La gran parte della gente guarda la televisione ed è convinta a modo suo che la televisione dica la verità. In realtà anche coloro che sono così, giustificatamente o no, adesso non lo stiamo a dire, ma che sono, che si fidano così tanto della televisione, in realtà sono convinti che la televisione faccia una cosa, cioè sono convinti per un'altra pessima ragione, ma sono tutte pessime ragioni spesso quelle per cui le persone si convincono di qualche cosa, spesso, non sempre, ma spesso sono delle pessime ragioni. La pessima ragione per la quale la gente è convinta che la TV dica la verità è che ci sono delle figure, che ci sono delle immagini, eh? La gente è convintissima che le immagini non mentano. Questo modo di dire è diffuso in quasi tutte le lingue del mondo. Pictures don't lie. Ed era il titolo di un famoso racconto di fantascienza, uno dei primissimi che lessi quando ero bambino, alla tenera età di anni 18. Pictures don't lie. Le immagini non mentono. Visto lì, è lì, come fa, come si fa? È quello, Specialmente in questa bella, ubertosa, fertile e merdosa terra di Lombardia, col suo vicere, che verrà eletto per la quinta volta alle prossime cazzo elezioni. La grande formica che tutti ci protegge con le sue ali protettive, come il manto di una vergine, come il manto della Vergine di quello lì, che non mi viene il nome, va bene. Scaviamo un poco più a fondo. Perché la gente è convinta generalmente che le immagini non mentano, cioè che dicano la verità? Perché le immagini sono una replica, un riflesso, una copia, di ciò che sta fuori di noi, della realtà, del mondo, o no? L'ho visto lì, con quella faccia da culo, era lui. Non possiamo dubitare. Non sappiamo che cosa abbia fatto quando non l'abbiamo visto in TV, ma quando lo vediamo in TV è lui. Capite di chi parlo? Cioè? Di quello ancora più importante di quello che non sappiamo se andrà tanto bene a queste regionali, ma ho un po' di paura ce l'ha, che non gli vadano tanto bene le cose, però non si sa mai, non si sa mai. Allora, se il criterio che la gente inconsapevolmente o consapevolmente adotta è che le immagini non mentono perché sono una copia della realtà, vuol dire che, diciamo, un approssimativo criterio, parliamo sempre a livello del criterio comune della verità, è che si dice la verità quando ciò che noi diciamo descrive abbastanza bene come sono andate le cose. È abbastanza aderente a quella che noi supponiamo che sia la realtà, giusto? Che cosa vuol dire questo? Che se la verità, abbiamo detto all'inizio, ha un côté soggettivo, è il soggetto che dice o non dice la verità, ha anche un côté oggettivo. Cioè il criterio di verità sarà l'aderenza, la corrispondenza o meno di certi enunciati o di certe produzioni. In genere si dice la verità, però uno dice anche quell'immagine, possiamo dirlo per traslato, dice la verità. Quindi c'è un lato oggettivo e un lato soggettivo nel problema della verità, siamo convinti di questo? Adesso non vi sto enunciando tesi pericolose, non vi sto convincendo del relativismo, spero che su questa cosa siamo tutti d'accordo, non è una... Non ci costa molto, no? Dire. Ecco, però è importante saperlo, perché naturalmente ci fosse mai un po' di testa in questa diavolo di aula. Eh? e voi non volete che io scriva sulla varia prolunghe, no? Tanti modi di essere, c'è un essere del registratore, c'è un essere del foglio di carta, un essere del banco, un essere degli esseri umani, un essere dei concetti, il concetto di bellezza, il concetto di bontà, il concetto di mascalzoneria, il concetto di politica, insomma tanti concetti ci sono, tanti oggetti, tanti, però ognuno di essi c'è qualche cosa, suppongono i filologi, che accomuna tutte queste forme di esistenza, ciò che esiste, esiste perché è qualcosa. Quindi ontologia, la chiamano ontologia, l'ontologia in filosofia è, la sapevate già questa definizione, mi dicono che di nuovo, no, ve la ripeto per chi non la sa. Quindi l'ontologia è il lato oggettivo, diciamo, il lato di ciò che è l'essere nel senso che... Epistemologia invece deriva dalla parola greca episteme, che significa conoscenza certa, conoscenza sicura. I greci hanno due parole diverse, non hanno un termine unico per dire conoscenza, ne hanno vari, diciamo i due principali sono la parola episteme e la parola doxa. La parola doxa la conoscete certamente perché sapete che ci sono degli istituti di rilevamento, dei sondaggi che si chiamano doxa, perché sono doxa, perché raccolgono i sondaggi. No, non dati. I sondaggi non sono dei dati, perché sono per voi dei dati, guardi. I sondaggi di, chiamano sondaggi di bravissimi, per quello siamo doxa, perché doxa in greco significa non la conoscenza certa, ma ciò che la gente crede anche se non è. Anche se non c'è alcun criterio, anche se non c'è alcuna corrispondenza con come stanno le cose davvero, è quello che la gente dice al bar, insomma, le opinioni, le chiacchiere da bar, che sono ben diverse dall'episteme. L'episteme è invece ciò di cui l'uomo può essere sicurissimo di. C'è qualche attività umana, qualche parte della scienza di cui possiamo dire vagamente che possiamo essere sicuri, perlomeno nel pensare comune, noi oggi, forse tutta la scienza, no? Ma in particolare la scienza poi diciamo che però alla fine la scoprono una volta e cambieranno le cose. C'è una scienza che siamo sicuri che non cambierà mai, quella, c'è un modo di dire anche là, non è un'opinione. La matematica. Quindi diciamo. Questo già per i greci antichi era così, già Platone, prima di Platone, ancora prima di Platone Socrate, prima di Socrate altri, dicevano così, c'è un modello, il modello dell'episteme è la matematica è una conoscenza certa, perché è dimostrato i teoremi, la somma degli angoli interni di un triangolo sarà sempre 180 gradi, non ci saranno cristi, non sarà né un centesimo di grado di più, né un centesimo, né un sessantesimo di grado di più, sarà sempre, siamo sicuri perché c'è una dimostrazione, con la ragione, siamo arrivati, adesso vedremo, dobbiamo dire anche questo, però insomma, in genere si pensa così. Allora, diciamo, col termine epistemologia intendiamo il lato soggettivo, non intendiamo episteme nel senso proprio specifico come lo intendevano i greci di conoscenza certa, però ci diamo un modello, cerchiamo di raggiungere la conoscenza il più certa possibile, il più sicura, diciamo, possibile, cerchiamo di passare dalla doxa, dalla opinione qualunque, alla episteme, cioè alla conoscenza fondata. Allora, nel problema della verità c'è un lato ontologico e un lato epistemologico. Il problema ontologico della verità, come lo potremmo formulare? Che cosa ci dovremmo chiedere sulla verità dal punto di vista ontologico? Chi ha tratto qualche potere? Domanda fondamentale sulla verità dal punto di vista ontologico, cioè dal punto di vista del suo carattere oggettivo. Non per la cosa. Cos'è? Prima di cosa è? Esatto, se esiste. Prima di dire cosa è, dovrei essere sicuro che, diciamo, esista, no? Quindi, domanda ontologica fondamentale. La verità esiste. Siete perplessi? Non stiamo rispondendo, stiamo cercando di vedere qual è il problema. Ti sembra un problema stupido? Sembra una domanda stupida? Forse anche, cioè non è detto che sia una cosa seria, però no. Cioè. Però è una domanda che l'umanità si pone sin da qua, sin dai suoi esordi, cioè non c'è cultura in cui questa domanda non si sia posta in qualche modo, magari per rispondere subito dopo. Però in qualche modo c'è la domanda, no, se ne riflessi. No? Non si riflessi. No. Allora, possiamo dichiararci tutti quanti d'accordo sul fatto che il problema ontologico, la domanda, la questione ontologica fondamentale della verità è la seguente. La verità esiste? Oh, scriviamola così almeno. Con quel po' di testa che ci rimane. Does truth exist? La verità esiste? Es gibt eine Wahrheit? Basta, mi fermo lì, se non so altro. Se eravate di più, per questioni statistiche, uno che sapeva lo spagnolo, cioè. Domanda di tipo ontologico sulla verità. Ok? Passiamo sull'altro lato. Dal punto di vista della epistemologia, invece, dal punto di vista di ciò che facciamo noi, di ciò che fa l'essere umano, del rapporto tra l'essere umano e la verità, che cosa, quale domanda ci porremo? Sempre voi fate sempre un passetto in più. Prima di chiederti come. Cosa, cioè, come. No, prima me la riconosco. Prima ancora. Cosa mi trovo complicati. Andate più a fondo, scavate più di fondo. Prima di chiedervi tutte queste cose, cos'è che dovete chiedervi? Si può conoscere. Oh, si può conoscere la verità. La verità è conoscibile. Una volta stabilito che esiste, se esiste, lo dite. Ammesso che esista, è capito? È conoscibile o no? Si può conoscere. Allora, esiste la verità, domanda ontologica sulla verità. è conoscibile la verità, cioè è possibile conoscerla, ovviamente da parte del soggetto, da parte di quei soggetti che siamo noi. Se non miti, sono due domande diverse, mica sono la stessa, no? È chiaro che se alla prima diamo una risposta negativa, la seconda domanda non ha più senso, giusto? A me mi pare, però con la verità, forse pensandoci bene. Basta così? Magari scriviamo qua. Queen Mary. Già, mi sono sbagliato. Ma ieri leggo tra la mano o? No, però voglio rimanere tutto assieme. Cosa? Se vuoi fare il vostro, la prima scelta. Io non ho ancora parlato con voi, però a me andrò bene alle due, perché amo, questo giorno c'ho ancora, questo giorno dico ancora preparato. Sì, come siete organizzati? Perché in genere cominciamo a mezzogiorno. Sì, adesso dobbiamo andare, siccome è il prossimo, dobbiamo andare tutto domani c'è la di Trever. Sì, domani c'è la Terre e la cosa sono anche tutti. E sono due o tre giorni da partire. Intanto è tutto a voi, c'è tutto scritto a voi solo. Io farei cambiare l'orario perché se no. Giuli? Grazie. Esiste la verità e se esiste è conoscibile. A questo punto è chiaro che a seconda delle risposte che io do a queste due domande, stabilisco la mia posizione, ognuno di noi stabilisce la propria posizione nei confronti del problema della vita. Voi dite, ma che cosa c'entra questo con la questione dell'universalismo? Perché ci dici che il sostenitore della verità è la verità? Perché la verità, un qualunque stato di cose, ontologia, o una qualunque asserzione su uno stato di cose, epistemologia, che sia vera, per definizione è qualcosa che non dipende da una particolare contingenza, da una particolare situazione. Sarà vera in tutti i casi possibili, se no non sarebbe vera. Quindi diciamo la verità è di per sé universale, giusto? Se no non sarebbe verità, se fosse qualcosa non sarebbe una verità particolare, ma quando io mi pongo il problema o un problema della verità, di norma mi pongo il problema di trovare qualche cosa o qualche stato di fatto, qualche stato di cose o qualche asserzione su questo stato di cose che non dipenda, che sia universale. Quindi diciamo il sostenitore, l'assertore della verità della verità, cioè colui che tende a rispondere sì a entrambe quelle domande, esiste la verità, e questa verità con un po' di sforzo è conoscibile, tenderà a dire che questa verità è universale. Tenderà a dire anche un'altra cosa, però, se questa cosa deve essere davvero una verità, cioè deve essere uno stato di cose, o una situazione di uno stato di cose, che vale, che si verifica, che si trova, che si incontra, magari con grandi difficoltà, ma che c'è in ogni situazione, in ogni età, in ogni spazio, in ogni tempo, vuol dire che non dipenderà da nulla, o no? Se dipendesse da qualche cosa sarebbe davvero una verità. Se ci fosse qualcosa che la condiziona, allora non sarebbe lei la verità, no? Sarebbe questo qualcosa che la condiziona, la verità. Quindi, una verità, la verità, oltre a essere universale, è anche sciolta, indipendente, autonoma. Gli esseri umani, quando sono indipendenti, quando sono sciolti da qualcosa, che chiamiamo autonomi. I concetti, quando sono sciolti da qualcosa, li chiamiamo, con una parola che deriva dal latino, assoluti. Devo dire assoluto, anche nel latino absolutus, sciolto, solvere, sciogliere, absolutus, ciò che è, si è tolto, è sciolto, non ha alcuna, non c'è nulla che lo condiziona. Quindi, come dire, spontaneamente, insomma, e abbastanza ragionevolmente, associamo al concetto di verità le proprietà, i predicati, si direbbe in logica, I predicati sono le qualità, gli aggettivi che noi, che descrivono un certo stato di cose, sono i predicati, Si predica, non nel senso prete, si predica qualcosa, di cosa d'altro, c'è un soggetto anche nella logica, c'è un soggetto già predicato, l'uomo è buono, l'uomo è soggetto, l'uomo è predicato, quindi si può dire predicato, non vi spaventa. Allora, i predicati fondamentali della verità sono la sua universalità e la sua assolutezza. La verità è universale ed è assoluta. E dirà il costruttore della verità, che quindi è un universalista, e non si deve offendere, è anche un assolutista, che lui crede che ci sia qualche cosa che è universale e che è assoluto. Quindi noi potremmo dire, nella nostra esperienza religiosa, nella nostra esperienza, se ne abbiamo, o nella esperienza che abbiamo della, diciamo, religione, com'è che chiama la religione cattolica una verità universale e assoluta? Dogma, giusto, il dogma. Il dogma dell'Immacolata Concezione. Gesù Cristo è nato senza che questa povera donna avesse neanche la consolazione di un rapporto sessuale con suo marito. È nato. Dogma, è un dogma, giusto? Allora, il sostenitore della verità non si deve offendere neanche se lo chiamiamo dogmatico. È uno che asserisce che esiste qualche cosa di universale e di assoluto, quindi che c'è un dogma, che lui crede ai dogmi, quindi è un dogmatico. Quindi abbiamo delineato un campo dei sostenitori di questo modo di pensare, esiste qualche cosa di questo. Ovviamente, come lo chiameremo? Uno che invece risponda no, o a una o a tutte e due le domande, E adesso vediamo come si può, se ci può essere un assolutista che risponda sì, o un dogmatista che risponda no ad almeno una di quelle domande, ce n'è. Facciamo il gioco adesso. Secondo voi, a quale delle due domande potrebbe rispondere no un dogmatista? La seconda, certo. Ci può essere qualcuno che dice sì, la verità c'è ed esiste, però l'uomo non la può conoscere. Quindi la verità rimane un ideale normativo, qualcosa che intendo, so, però sono, mi rendo conto che non potrò mai conoscerla. Quindi ci possono essere diverse sfumature anche. come ovviamente ci sono diverse sfumature nel campo opposto. Si può rispondere, allora, diciamo ovviamente che colui che risponde no ad almeno una di quelle due domande potrà essere a buon giudizio definito invece di un universalista un relativista. Perché vogliamo che io risponda no alla prima domanda. Esiste la verità? No. Che cosa vuol dire negare che esista una verità? Vuol dire negare che esista qualcosa di universale e di assoluto. Quindi l'universalista dirà esiste qualcosa di universale e di assoluto che io chiamo verità. Il relativista dirà non esiste nulla di universale e di assoluto. E ovviamente questa affermazione può essere facilmente convertita nell'altra. Se nulla è assoluto vuol dire che ogni cosa è relativa. Giusto? Per questo deve essere chiamato relativista. Come i difensori della verità non domandano tanto essere definiti assolutisti o tanto meno dogmatici, così capita che molti negatori dell'universalità e dell'assolutezza della verità analogamente odino essere definiti relativisti. Non mi piace. Specialmente adesso che alcune delle agenzie comunicative e spirituali più importanti del mondo, per esempio la Chiesa Cattolica, fanno delle crociate contro i relativisti, con lui relativista spesso, sono relativista, no, non sono d'accordo con lui, ma non sono relativista, perché il relativista sempre una parolaccia, però se uno non è assolutista, quello che sia, grande relativista, non è universalista, è relativista. Allora, io personalmente non mi faccio insomma problemi, io le mie concezioni personali sono fondatamente relativiste. Io personalmente rispondo no ad entrambe quelle domande. E quindi mi considero un relativista integrale. Che cosa farà il relativista nel momento in cui l'universalista o l'assolutista gli propone, diciamo guarda, adesso faccio vedere, questa è la verità. Quale sarà l'operazione mentale, cognitiva che fa il relativista? Che cosa opporrà il relativista alla asserzione dell'universalista? Che la verità esiste e che lui l'ha trovata, perché, cioè, quindi del relativista forte, dell'universalista forte, dell'universalista volcanista, che dice non solo che la verità esiste, ma che si può conoscere, che ovviamente poterla conoscere, lui la conosce, che ce la dice, insomma, no? Come si chiama l'operazione? Questo è interessante. Vediamo, secondo voi, che cosa oppone il relativista per essere davvero relativista? Deve opporre una negazione? O deve opporre qualcosa di più sfumato? Sì. Se oppone un'altra verità non è tanto relativista. Un'altra verità che sia la sua, un'altra verità che può apparire ugualmente valida, ma che per forza di cose. E quindi da un certo punto di vista nega il carattere universale della verità. Non ho capito una cosa, sì. Un attimo. Il relativista, appunto mettendo la verità non è assolutamente universale, eccetera, sarà arrivato in qualche modo a ragionare in questa maniera, quindi ha la sua verità. Questa è una delle obiezioni che fanno. che fanno gli universalisti ai relativisti. Certo, adesso è per questo che sto cercando di rapportare la posizione del relativista. Se il relativista ragionasse esattamente come dice lui, cioè, no, non esiste nessuna verità. Un'asserzione del genere è facilmente tacciabile di contraddizione. È vero o no? Perché nel momento in cui io dico non esiste nessuna verità, se io asserisco non esiste nessuna verità, è ovvio che ho asserito qualche cosa esattamente di universale, assoluto, eccetera, al pari di ciò che ho negato. La mia conclusione, ma se ci pensate bene, è che nessun vero relativista può dire una cosa del genere. Allora, se un relativista dice, non asserisce, non esiste nessuna verità, in realtà noi potremmo fondatamente affermare che costui non è un vero relativista, è un universalista mascherato. È un universalista, diciamo, di opposizione, perché ce l'ha con lui, perché è, come dire, un comunista o un giudice, secondo Berlusconi, insomma, è un tipo così. Ma non è un vero relativista, perché ha sempre. Quindi la negazione dell'affermazione esiste qualcosa di assoluto e di universale, non è realmente non esiste. Logicamente sarebbe così, nella logica sarebbe così. Se io prendo la logica formale, la logica matematica, e faccio esiste x tale che x è assoluto e relativo, la sua negazione è non esiste x tale che. Ma nella logica formale, come nella logica in genere purtroppo, la logica è effettivamente uno strumento universalista. E quindi è impossibile asserire qualcosa stando all'interno di una logica aristotelica o classica che non sia universalista. La vera negazione, la vera contrapposizione della asserzione non esiste nessuna verità è, fate bene attenzione, quando io dico esiste qualcosa di reale assoluto, come quando dico non esiste qualcosa, di cosa faccio in realtà? Faccio una operazione di connessione tra l'ontologia e l'epistemologia. Dirò ancora di più, già stabilire una differenza tra ontologia e epistemologia è una operazione non universalista. L'universalista vero, per l'universalista vero, non è possibile che ci sia qualche cosa di universale e assoluto che non sia conoscibile. È la stessa cosiddetta prova ontologica dell'esistenza di Dio che chiede Sant'Anselmo nel 1100. Sapete la prova ontologica di Sant'Anselmo? È molto semplice. Si chiama infatti prova ontologica. Tra le tante prove dell'esistenza di Dio che è stata data, questa appariva per dopo di uno. Ce n'era una che era quella. Molto di questo dibattito medievale sull'esistenza di Dio è importante per il discorso universalismo-relativismo, perché come dire, l'idea di Dio è Dio è l'essere privilegiato, no? Dal punto di vista è assoluto, è universale, cioè è uno dei concetti più forti che le tendenze universaliste abbiano, come dire, prodotto. E quindi uno degli argomenti era l'argomento relativo al regresso all'infinito, no? Basato sul principio di causa e effetto. Se io stabilisco il principio universale che ogni cosa è causata da qualche altra, ogni cosa è l'effetto di qualche causa, posso vedere questa cosa, questo foglio di plastica è l'effetto di una fabbrica, di un processo produttivo situato in una fabbrica con certi macchinari che hanno prodotto, questo è l'effetto di una fabbrica. Quella fabbrica cos'è? È l'effetto di un altro processo produttivo che consiste nel costruire un caseggiato e nel costruire i macchinari per fare questa roba qua e nel metterli dentro. Andando indietro andiamo alle materie prime, a un certo punto dice il, diciamo, l'universalista, dice il teista, dice lui che è nel dire, che ci dobbiamo fermare perché dobbiamo trovare qualcosa che sia una causa ultima. E dice bene, la causa ultima di tutte le cose è Dio. Molto, ovviamente l'obiezione che voi potete, cioè, vedete che non c'è distinzione tra ontologia ed epistemologia in questo modo di ragionare. Se voi fate una distinzione tra l'ontologia e l'epistemologia, voi potete dire, ma perché l'inesistenza di un tempo sufficientemente, un tempo sufficiente a farmi percorrere all'infinito tutta la scala delle domande possibili deve essere problema epistemologico? Perché deve essere trasferito indebitamente sul piano ontologico? Quindi, siccome io non ho il tempo di farmi tutte queste domande, allora esiste qualcosa che si chiama causa ultima, esiste Dio. È una, capite che è un passaggio da uno dei due campi all'altro. Io comincio un ragionamento dicendo, per poter faccio un, diciamo, un ragionamento che è relativo alla mia capacità di dire questo è causa di quest'altro, questo è causa di questo, di questo. Una volta che rilevo l'esistenza di una infinità possibile in questa catena di cause e di effetti, passo sul piano ontologico e dico e quindi esiste una causa prima. Ho fatto un passaggio senza averlo dichiarato. Ho confuso l'ontologia con l'epistemologia. La stessa cosa avviene con la prova cosiddetta ontologica di Sant'Anselmo. Sant'Anselmo parte chiedendosi, io posso pensare Dio, e anche l'ateo sarà costretto a dirmi sì, certo, perché tu lo pensi, anch'io penso Dio, non penso che esista, ma no, Sant'Anselmo, Cartesio ha dato una versione totalmente epistemologica del corpo di Sant'Anselmo, ci stiamo togliendo Dio, ma è simile al processo del nucleo radicale cartesiano. È molto simile. Allora, Sant'Anselmo mi dice, facciamo conto di Gesù, Sant'Anselmo, faccio un po', mi arrogo il titolo, il, come si dice, diciamo l'onore di fare il rappresentante del pensiero scettico di cosa Sant'Anselmo. Allora io gli dico, certo Sant'Anselmo, mi dice, ma tu pensi Dio? Certo, dico, caro Anselmo, prima mi ascolta che lo sanno. No, caro Servo, certo, lo so, è ovvio che tutti noi possiamo pensare Dio. Dice, bene, e come lo pensi Dio, come lo penso io e come lo pensi tu? Dice, io penso che Dio sia un essere perfettissimo, quindi dotato di tutte le qualità e di tutte le possibili attributi, tutti i possibili predicati del mondo, dice Sant'Anselmo. Tu sei d'accordo con me? Mi chiede, dico sì, certo, dico, è ovvio. Tu pensi Dio così e anch'io penso Dio così, so che il tuo Dio, il tuo concetto di Dio è quello, è un essere dotato di tutte le qualità, di tutti i predicati possibili, è talmente universale, talmente grande che tu lo pensi così e anch'io lo penso così, concordo con lui e gli dico bene, se non parlo, ma se no si disegna un sorrisone da un regante, no, pregato. Maledetto ateo, finalmente dice, allora fra i possibili predicati di ogni concetto c'è anche quello dell'esistenza, e quindi trionfante dice Sant'Anselmo, e quindi Dio essendo pensato come essere perfettissimo, avete capito cosa fa lui, eh? Essendo pensato come essere perfettissimo, avendo tutti gli attributi possibili, ha anche quello dell'esistenza, quindi Dio esiste. Mi guarda e fa come se la notte è giusto al fine della parlata, io so che pensa di avermi colpito al pensare grosso. Come gli risponderò secondo voi io? Come gli rispondereste voi se fosse radicalmente che obiezioni farete a questa cosa, che sembra inattaccabile, o no? Sembra, ma sembra inattaccabile. Ma è la prova della resistenza. Ops, ma Ops della risposta. Ma tutti gli hanno risposto, la risposta fondamentale è caro Fermo, tu non puoi passare così disinvoltamente dal piano del pensiero della epistemologia al piano dell'essenza, dell'ontologia. Dove sta scritto che l'esistenza pensata sia uguale alla esistenza reale? Se fosse così dovremmo pensare che esistono realmente tutti gli dèi e tutti gli esseri fantastici di tutti i pantheon creati da tutte le culture umane. Dovrebbe essere la chimera, dovrebbe esistere Shiva, l'Isnudio. Ma Sant'Anselmo è ben lungi dal concedere, dall'essere disposto a concedere l'esistenza a quegli esseri, ma non porta alcun argomento per cui non devono esistere anche quegli esseri. È ovvio. L'universalista, come di teoria, usa sempre carte truccate quando lavora, quando ragiona, sempre carte truccate, perché crede di potersi permettere. Perché? Perché parte da un presupposto, da un pregiudizio che non potrà mai dimostrare, ma che è fondamentale, che è radicato, per pensare che è la corrispondenza perfetta tra il pensiero e il mondo. Ecco perché lui pensa così, ecco perché può dire l'essere perfettissimo che io penso dotato di tutti i predicati, quindi anche dell'esistenza, e quindi esiste, perché non può concepire l'idea che ci sia uno scarto tra il pensiero e la cosiddetta realtà. Detto in altri termini, l'universalista, lui non sarà disposto a mostrare d'accordo con questa mia conclusione, l'universalità è privo di fantasia. Non può concepire la fantasia, non può concepire l'idea che gli esseri umani abbiano una qualità, quella del linguaggio, prima ancora che del pensiero, insomma, che è l'unica. Noi siamo strumento con il quale si possono costruire cose che non esistono. Ma quante cose costruisce il linguaggio che non esistono? In continuazione. Perché il linguaggio è qualunque strumento di raddoppiamento del reale, di rappresentazione del reale, ha dentro di sé la possibilità di eccedere il reale. Da un lato non potrà mai descriverlo compiutamente questo reale, perché il reale è l'insieme di tutte le possibilità che ci sono, questo è il reale, e ha a sua disposizione un tempo e uno spazio concettualmente infinito. Il linguaggio è uno strumento limitato, si possono dire delle cose entro un certo tempo, se devo aggiungere tempo, devo... Quindi è ovvio che il linguaggio non potrà mai raddoppiare, descrivere esattamente tutto ciò che c'è nella vita moderna. Ma è vero anche il contrario, è vero che il linguaggio, essendo una combinatoria di elementi finiti, i suoni, o le lettere scritte, ma insomma, i suoni nei linguaggi di parola, essendo una combinatoria di un insieme finito, ma potenzialmente di lunghezza infinita, cioè non c'è una legge che mi dice che io non posso pronunciare una frase più lunga di un po', quindi nelle possibilità del linguaggio c'è insita, tra le varie possibilità del linguaggio, c'è insita quella di raddoppiare delle cose che non ci sono. di descrivere stati di cose che non hanno una corrispondenza con il di immaginare. Il linguaggio è strettamente collegato al tempo. Ogni volta che io parlo faccio una scommessa sul futuro. Parlo in un certo momento, certo, ma nel momento in cui parlo, siccome sto procrastinando, ci sto mettendo un certo tempo, no? E quindi sto proiettando in una dimensione temporale ciò che è risultato l'accumulo delle cose che mi si sono accumulate nella testa, nel pensiero, materialmente nel cervello. Ho una certa quantità di configurazioni neuronali nel cervello che, come sono, anche se sono nate per l'esperienza che io ho avuto di certe cose, per la loro complessità possono anche riguardare nella mia attività mentale consapevole o inconsapevole e nella produzione verbale che faccio, possono riguardare delle situazioni che non hanno il corrispettivo nel mondo. L'uomo ha sempre fatto così. L'uomo è probabilmente anche non l'uomo. Io sono convinto che l'uomo non sia l'unica specie che abbia parlato di questo aspetto. Sono convinto che il linguaggio fosse già caratteristico di tutte le specie ominidi, che purtroppo non ci sono più, perché mano a mano che nascevano nuove specie, quelle vecchie in genere venivano eliminate. Nel milione e mezzo, 2 milioni di anni che ci ha messo a formarsi la specie Homo sapiens, che è l'ultima arrivata, perché questa questione della anticipazione temporale, che è tipica del linguaggio, è tipica anche della tecnica. Quando voi trovate un grande numero di pietre schiacciate, nei siti archeologici, e quindi avete una prova, diciamo, che è stata l'attività che qualcuno le ha, diciamo, schiacciate. Non si schiacciano centinaia di pietre per caso, una, per caso. Se ne trovate 30, 40, 50, 100, 200, 2000 distese in disegni terre, vuol dire che c'è qualcuno che è stato lì. Ora pensate bene che cosa vuol dire questo. Qual è l'operazione, qual è il presupposto perché uno si metta lì e per ore e ore, a volte anche 2 giorni, con una pietra in una mano, di selce in genere, e una pietra nell'altra più dura, e gli dà delle botte sopra finché non si staccano i pezzi, e la pietra che avete nella mano sinistra, se siete destrossi, o nella sinistra, se siete mancini, insomma, la pietra che state tenendo in mano fino a che non perde quel suo carattere rotondo e smussato e si trasforma in qualche cosa che ha una superficie tagliente, che ha un orlo. È un'operazione lunga, ci vuole un casino di tempo. Questa è la prima forma di tecnica che abbia. Ed è un'attività che non ha fatto solo Homo sapiens. La faceva Australopithecus afarensis 1,5 milioni di anni fa. La faceva Liussi. Questa piccolina, questa necroide, questa alta 1,20 m, 1,30 m, ma che aveva già la stazione eretta. Qual è la precondizione? Qual è la condizione per poter fare un'attività del genere? Che cosa dovevate aver avuto in testa per stare lì? Pollice. No, il pollice è ottimo, ma quello c'è anche le scimmie, non è che non ce l'ha. A che cosa servirà quindi? Sì, chiamiamo il ragionamento, ma vi ho chiesto sul tempo, c'entra il tempo. Faccio qualche cosa perché so che succede, che se faccio questo qualcosa succederà. Voi dite, ma tutti quanti gli animali ce l'hanno. Certo, anche il leone quando insegue la gazzella sa che la leonessa, insomma, perché i leoni maschi sono una merda, non fanno un cazzo, mangiano solo, cacciano le femmine. Allora, quando la leonessa dice, è chiaro che anche lei pensa, oh cazzo che bel pranzetto mi faccio fra un po', certo, ma la corsa del leone e della gazzella è una roba, intanto è un meccanismo puramente istintuale. Tutti le leonesse, i maschi un po' diverso, tutte le leonesse, per istinto vedono una e si mettono lì e cosa, quando hanno fame. E poi dura poco tempo, voglio dire, è una cosa quasi immediata, supponendo che un leone, è una situazione stupida ovviamente, ma supponendo che avesse meccanismi di autocoscienza simili ai nostri, non avrebbe coscienza, adesso mi metto lì fra domani, arriverà, no, cazzo, fra due o tre minuti massimo, e infatti in genere sono le gazzelle solo più veloci, le leoni, la leonessa magna, solo gazzelle zoppe o gazzelle cretine che si mettono, come in teoria nel 68, che invece di correre, di tappare, allora di buttare il gazzelle zoppe, quindi il tipo di salto mi dà una manda dall'altro, però se te li puoi unire, allora qui però sarei stato una ovvia preda, perché infatti sono stato preda un paio di volte dopo, quindi sono accorto che non era che igienico, insomma, durante una carica della polizia, guardarsi intorno, io cosa succedeva, che rischiavi di essere massacrato di nuovo. E quindi beccano solo quel casello. Ma è qualcosa, come dire, sarebbe difficile descrivere questo atteggiamento del leone come una progettualità. Non c'è un vero progetto. Non bisogna neanche distaccare totalmente la progettualità, è ovvio che la progettualità dell'ominide che schiaccia è collegata con le attività di altre, diciamo, specie. Ma nell'essere umano, per qualche misteriosa ragione che adesso, ma che spero che abbiate capito qual è la ragione che io propongo, come dire, lo iato, lo scarto, la differenza temporale che c'è tra una certa azione e il suo risultato, intanto è più lungo e poi è molto più complesso. Non c'è nessun istinto nell'essere umano che lo spinge a schiacciare le pietre. Dove cazzo sta l'istinto? Se fosse così, anche noi continueremmo a schiacciare pietre. Se fosse un istinto, sarebbe qualcosa di geneticamente determinato. Invece abbiamo la prova che non lo è, perché l'attività tecnica è cambiata nei 250.000 anni di storia di Homo sapiens, dalla creatura di pietra alla costruzione di centrali nucleari. Speriamo, diciamo di no, quest'ultima cosa, ma insomma, purtroppo in molti paesi fa. È ovvio che non c'è nulla di, diciamo, innato. Cioè, l'attività tecnica è qualche cosa di libero, si sceglie a seconda delle cose, quindi non è istintuale, non è un comportamento dettato dall'istinto, è un comportamento che però implica, primo, una differenza temporale abbastanza lunga tra l'azione e il suo risultato, secondo, una previsione di un risultato che non è iscritto immediatamente. La gazzella zoppa è ovvio che se tu insegui la zoppa sta nella, virgolette, natura. C'è uno che ti vuole mangiare, tu che ti sei azzoppata o stai pensando ai cazzi tuoi e non vuoi correre tanto quanto dovresti correre, ti fanno secca e se c'è lì vicino un carnivoro è ovvio che verrai, come dire, mangiata, punto chiuso, non c'è altro. La stocciotolo di selce, non c'è nulla di illicito nel ciotolo di selce, nella situazione essere umano ciotolo di selce, che dica che verrà trasformato in qualcosa con un bordo da niente. Non c'è. Quindi, scarto temporale, capacità di prevedere l'esito dell'azione prima di averla fatta. Com'è che si chiama questa roba? Progettualità. No? Non è lo stesso meccanismo che c'è nel linguaggio? Non è uguale? nel momento in cui io emetto del fiato, organizzo nella mia testa delle parole, adesso che sto parlando a voi, e prevedo l'effetto che vi faranno. C'è un range molto, molto alto, comunque diciamo l'effetto base è che arrivino a voi e che mettano in moto dei processi mentali in ognuna, diciamo, delle vostre teste, in modo che possiate confrontarvi con quello che io dico. È esattamente la stessa situazione. Per questo che io sono convinto che tutti gli animali tecnici siano anche animali linguistici. Non trovo plausibile che l'Homo sapiens sia l'unico animale che ha. Non abbiamo prove, ovviamente, non possiamo avere prove. Abbiamo delle controindicazioni, cioè che il volume cerebrale dei primi australopitechi, cioè dei nostri più lontani antenati, era molto inferiore al nostro, molto. Era un po' più grande di quello delle attuali scimmie antropomorfe, ma non molto. Il che vuol dire che forse non c'era sufficiente spazio nel loro cranio per ospitare le circonvoluzioni, diciamo la zona della neocorteccia, gli ultimi strati della neocorteccia, che nel nostro cervello sono le zone linguistiche. Quindi è possibile, anzi è quasi sicuro, è probabile che se c'era linguaggio questo abbia avuto delle forme molto meno elaborate del nostro. Era difficile pensare che un altro tipo potesse scrivere la legge di certo, la fisica, però non si vede perché non si possono concepire delle forme di linguaggio un po' più rose, un po' meno, ma sempre collegati con questa cosa, perché non hanno niente a che fare con le altre forme di comunicazione animale. Nessuno dei semplici sistemi di comunicazione che hanno anche i primati, anche le scimmie, è simile al linguaggio. Primo, perché non ha la doppia articolazione, cioè perché ogni suono emesso dal gorilla ha un significato preciso, ogni suono singolo, non come noi, eh? Noi la cosa geniale è che ha e quello che non vuol dire nulla, sono le catene, ed è per questo che possiamo dire tante cose, perché abbiamo, virgolette, scelto, non abbiamo scelto niente, ma insomma, perché è andata così, perché abbiamo la duplicazione. Loro non hanno la articolazione. Secondo, non hanno questa sviluppata capacità progettuale, cioè non progettano esattamente come noi. Certamente sanno che quello che fanno ha gli effetti, è ovvio, ma non è ancora sviluppato al punto come riguarda il nostro. Allora io dico, cioè io suppongo che sia possibile, però cioè, sono pure esempi di posizioni, possa anche non dire, insomma, tanto non ci saranno mai delle cose. Però insomma io veramente rilutto all'idea che. Allora questo era per spiegarvi che c'è una eccedenza reciproca del mondo sul linguaggio e del linguaggio sul mondo, che è quello che fa cascare la prova ontologica. La prova ontologica casca perché la prova ontologica, come qualsiasi asserzione universalista, per essere fondata presuppone la corrispondenza totale e bionivoca tra linguaggio e mondo. Se non c'è quella, la prova cade. Se non c'è quella, è solo quella che può fare asserire senza, come dire, vergognarsi la presunzione che ciò che si dice che è vero, che ciò che si dice che esiste, esista davvero. Però, ripeto, con l'effetto collaterale, sgradevole per l'universalista, che è quello di potermi dire non hai fantasia, perché tu credi che tutto ciò che dici esiste, quindi credi di non poter inventare nulla, credi che la tua posizione linguistica sia condannata a essere per l'eternità, visto che poi ci credi così tanto all'eternità, nient'altro che una copia del mondo. E allora, come dice Certi, nel momento che sono più cose in cielo e in terra, tuo razio, di quanto non ne pensi la tua filosofia. Ma ci sono anche più filosofie, signore, di quante tu non ne abbia progettato e realizzato il tuo mondo. Sarà sempre così. Il rapporto tra il linguaggio e il mondo è questo. C'è una zona in cui il linguaggio copre il mondo, ma c'è una zona del mondo che il linguaggio non copre, si può cambiare, certo, cambierà, si andrà oltre, ma ci sono anche delle cose che il linguaggio può creare e che nel mondo non ci sono. Questa è la conseguenza ineliminabile, quando c'è uno strumento di tipo linguistico che abbia le stesse, che abbia quella ricchezza, che abbia quella potenza che ha il linguaggio umano, non è che sia l'unico, ce ne possono essere tanti altri, non è che sia quello, è quello che conosciamo. Mi ero perso. Questo è quello che, diciamo, da un lato, come dire, ci garantisce gli spazi di creatività. Si possono creare cose che non ci sono, si possono pensare, immaginare, progettare cose che non ci sono. Dall'altro però ci mette in guardia, cioè dice dobbiamo essere cauti, cioè non possiamo presupporre, non possiamo avere la presunzione che il linguaggio non solo non descriva oggi il mondo, dice vabbè non lo descrive oggi perché è un po' inadeguato, ma in prospettiva dovrebbe farlo, ci arriveremo. No, non ci arriveremo mai, perché noi siamo parte di un ambiente, di un mondo biologico, e cioè di un mondo che ha già dell'attività, tutta la vita è attività, è trasformazione, ed è continua creazione di cose nuove. Darwin ci ha, diciamo, spiegato, non proprio bene, ma alcuni biologi contemporanei hanno migliorato un po' le sue, insomma, spiegazioni, ci hanno spiegato che c'è un meccanismo semplicissimo, abbastanza semplice, che non ha bisogno di un progetto intelligente per funzionare, perché funziona per i cazzi suoi, con cui succedono delle cose, cioè si creano, si eliminano e si creano su tempi sufficientemente lunghi delle popolazioni di esseri viventi sempre nuove, si creano nuove specie. La storia della vita su questa terra è la creazione, è una storia continua di eliminazione e creazione di nuove specie. Quindi noi viviamo in un ambiente dinamico, non in un ambiente fisso, preso, fissato. L'obiezione che io faccio di fondo al modo di pensare dell'universalista, l'universalista non dirà mai che il mondo è fatto così, spesso concorda con me in quanto rappresentante del relativismo, spesso concorda con me su tutte le cose che dico adesso, che il mondo è fatto così, eccetera. Però qual è il suo modello? Quando io dico che c'è qualche cosa che è universale, assoluto, è sciolto da tutto, che cosa significa? Significa che io penso che il mio modello di essere davvero è qualche cosa che è lì. La verità sta lì e non cambierà mai. Perché è la verità, perché è assoluta, perché è eterna, perché è sciolta da ogni vincolo e quindi è sottratta al divenire della storia naturale, della storia della natura e poi della storia degli uomini. voi mi scuserete se io provo una invincibile diffidenza verso uno che pensa così. È un semplice, come dire, sentimento, io non è contento che sia un criterio. Quindi mi diffido, cioè non posso diffidare verso chi ha un modello del pensiero umano, dell'attività umana e anche del mondo di questo genere, perché è un modello fisso, è un quadro che non cambierà mai, è qualcosa di morto, di cancellato. L'eternità è bella ed è pensabile se è se evolve, se è sviluppo, se è divenire, se è cambiamento. Quando Dante ha voluto rappresentare il paradiso, che nella teologia cristiana è uno di questi modelli, è qualcosa che non cambia mai, in cui gli anime stanno lì tutto il giorno contemplano Dio, ti rompo i coglioni, senza. Cosa ha fatto Dante? Ha contraddetto questa cosa e ci ha fatto vedere un paradiso in cui succedono delle cose, in cui lui parla con la gente, in cui gli angeli cantano, in cui lui vede Beatrice e scrive delle cose Beatrice. Quello non è il paradiso, quello è quel paradiso di Dante, è una finzione resa dinamica ed è bella, è una delle cose più belle che ci sono state scritte dagli esseri umani, ma non è concettualmente, per forza di cose, non può esserlo. Non si può rappresentare la verità. Rappresentare la verità è o una noia mortale o un suicidio. Un suicidio come essere umano, che vuol dire sottrarsi al divenire, vuol dire fare il passo fuori dalla storia, vuol dire non volere più vivere, vuol dire non volere più vivere. Questa è la verità. Può essere vera per alcune culture. Ciò che per lei non può essere vero, può essere vero per altri. Cioè, nel senso che la trinità è pluralista, quindi vuol dire che non può. No! No, certo. Ovvio. Allora, torniamo a... prima della pausa, torniamo a... alla negazione dell'affermazione radicale dell'universalista. Esiste una verità universale ed assoluta. Allora, abbiamo visto, spero che siamo convinti, che la negazione di questa asserzione sul piano logico non può essere la bandiera del relativista, perché essendo una negazione sul puro piano logico è passibile di essere criticata in quanto ricade sotto, no? Quindi dire, opporre all'asserzione non esiste una verità universale, esiste una verità universale e assoluta. Una asserzione, non esiste una verità universale e assoluta, non diciamo che è sbagliato, diciamo che è una strategia improduttiva per il relativista, perché lo espone alla facile obiezione della assolutista, che gli dice allora anche tu sei un assolutista, perché anche tu sostieni che c'è qualche cosa di... Allora, quando io prima ho chiesto qual è l'atteggiamento possibile opposto a questa cosa, qualcuno di voi mi ha detto il dubbio. Ovviamente, allora è questa, mi sembra che sia una strategia molto più... Il relativista fondamentalmente è uno scettico. Il relativista è qualcuno che dubita di tutto. È un po' piccoglioni, certo, me ne rendo conto, no, sì. Però questo è il buon atteggiamento. Non bisogna dire non esiste una verità. Bisogna dire dubito che esista qualche cosa di assoluto e di universale e sostengo che la tua affermazione esiste una verità universale e assoluta è indimostrabile. Allora io non so se la formulo bene, perché sono ti aiutiamo se mai a formulare. E allora, se si perde, cioè, ponendo questo come palito principale della ricerca conoscitiva, e si perde più o meno uno sfondo che può essere più o meno condivisibile da tutti. All'interno di questa ricerca che non ha uno scopo ultimo, nelle varie discussioni vince più forte. Spiega bene che cosa vuol dire più forte. Il più capace di questi capire. Il più capace di questi capire. Che cosa dicendo? Chi ha chiamato? Sì, più capace linguisticamente a affrontare più capace linguisticamente opzioni non confutabili. Posso dire che non ci vedo niente di male se più capace linguisticamente di vincere. Non ci vedo niente di male. Sì, allora se lo parla. Parla bene. Certo, guarda l'esame, guarda il contesto. Se uno parla bene, è uguale. Purtroppo non è così, purtroppo non è così. Però vince le cose giuste. Ma come dice, ma che ho detto che è vero, cioè che lui crede veramente, non so, tutto questo. Cioè uno può anche far finta di una cosa bene. Sì, ma... ma quando dici cose giuste perché cioè chiunque può credere che una cosa sia giusta, indipendentemente se tu dici una cosa in una maniera che può essere verosimile può sembrare giusta e la gente ci può credere, cioè quindi se sei credibile vinci. Se te la rendo credibile, cioè se vedere una donna si chiamano romanzieri, sì, scrittori, non fa una cosa così, diventa, tu ti leggi un libro, dimmi uno, un autore ultimo che hai letto che ti piace molto, uno di ultimo, non lo sai, l'ultimo libro che hai letto, l'ultimo romanzo che hai letto. L'ultimo, ma che gli sia piaciuto, ma l'ultimo che gli sia piaciuto. Diritto classico. Diritto classico. Tu l'hai un classico, no, pensavo in un contemporaneo. Mi stavo, poesico. Adesso mi giochiamo alla linea di Moccia. Non si sa mai. Tu l'hai inserito, nel momento in cui tu stai. Nel momento in cui tu lo leggi, trascomico, che esiste. È certo che è ovvio, se no vuol dire che il libro è fallito. Ma può, benissimo, perfetto, è per me tipico. Ok, perché ti è piaciuto, perché ti ha preso, perché vuol dire lui, Dostoevskij è uno che parla bene, scrive bene, probabilmente parlava male forse, non parlava più di bene come io. Perché le cose che scrive possono esistere, ma si fanno anche i resti di un libro. Perché la ciliegia non potrebbe proprio mai esistere. E sì, perché non c'è una condizione in realtà. Io scrivo bene il Dio. Io amo un sacco di Dio. C'è la possibilità. Allora io parlo di Dio. Il relativista non ti dirà che Dio non esiste. L'asserzione esiste Dio è indimostrabile, esattamente come l'asserzione non esiste Dio. Il vero ateo non ti dirà che non è. Se uno ti dice Dio non esiste, non è un vero ateo, è un assolutista, è un teista travestito da ateo. Il vero ateo ti dice è indimostrabile che Dio esista o che Dio non esista, ma sulla base del fatto che Dio esista, c'è gente, io amo un sacco di scrittori cristiani cattolici, ad esempio Jorge Bernanos, è uno che credeva in Dio, ci credeva in maniera profonda, ha scritto dei libri bellissimi basati su questa, diciamo, questa cosa, non ho bisogno, io sono, il bravo relativista è sufficientemente elastico da potersi permettere di leggere e di apprezzare anche quelli che dicono che Dio esiste, è l'universalista che sarà più tutto lui. Ma vuol dire che è possibile che esista. E allora, cioè, invece di dubitare meglio, cercare di capire. Sì, però c'è un altro problema. Cioè, la verità esiste. Non cerca di capire. Io ho dubito che la verità esista. Ma quindi può esistere o non esiste? E allora cerca di capire. Cioè, cerca. Esatto, è quello che l'uomo cerca di fare, però non è quello non che... Non posso fermarmi a giudicare, no? Non potrebbe. Invece è il motore della vita. Vai avanti, cioè, vai avanti, perché cioè, ogni nuovo dubbio che ha. Ma ogni nuovo dubbio che ha. Ma ogni volta che tu penserai di averlo trovato davvero, e arriva un altro che te lo demolisce, se tu non ti sei abituata al dubbio, se non hai fatto del dubbio la tua, diciamo, la molla della tua diciamo, ricerca, e sarai lì, io accidenti, io ho convinto che l'intero fatto di questo di più. Se tu invece sei in una condizione di dubbio, diciamo, radicale, continuo, sei molto più coraggiata verso questo tipo di cose, perché sai, perché sei convinta, e perché sai che puoi costruire sempre nuove costruzioni, sempre nuovi pezzi di linguaggio che ti portano da altre parti. Il dubbio aumenta la quantità di cose che conosci, diciamo, del mondo. E quando ti fermi, quando senti di che dici bene, sono già arrivato. Non c'è più niente da fare, perché sono già arrivato alla verità. Ho già trovato verità. Quando ho già trovato verità, basta, cosa cazzo ho preso? Che cosa devo fare? Perché devo continuare a ricercare se sono arrivato alla verità, cioè alla asserzione definitiva. Non c'è niente. Ma noi insegnanti non siamo fatti così, perché abbiamo uno strumento, perché noi parliamo. Parlare significa esattamente costruire sempre nuovi pezzi di mondo, porsi sempre nuovi problemi, mettere in dubbio ciò che sappiamo. Se Newton avesse allenato così, e allora non avrebbe costruito la fisica che ha costruito lui. E se Einstein non avrebbe buttato a mare la fisica di Newton e costruita quella nuova, e se quelli che oggi cercano le stesse stringhe per fare così non starebbero cercando. La ricerca è in continuazione, in continuazione. Tu devi mettere sempre in discussione ciò che sai, perché soltanto con quella messa in dubbio, con quella messa in discussione, con quella messa tra parentesi, no, non sono soddisfatto. È l'insoddisfazione, è la vera moda. Essere soddisfatti è una pericolosa. Io ho un'altra domanda. La risposta che mi sono dato è sul fatto della consapevolezza. Cioè all'interno di uno scambio tra di relazioni, un gioco principale lo può giocare, il ruolo principale lo può giocare la consapevolezza di quello che si sta dicendo, messa in condivisione con altre persone. E no, che carta serve. E questo può essere una soluzione, però nel momento in cui si vive in una società fortemente capitalista, in cui le pratiche di dominio vengono poste dall'alto verso il basso, e soprattutto questo esercizio di potere limita la conoscenza di quelli che sono in basso, la sezione fatta prima vince il più forte, viene messa in discussione, cioè non viene messa in discussione, si ripresenta ancora più forte. Ma vabbè, politica allora. No, capito. Sì, posso tirare un po' il giro, ma no. Allora, attenzione, è che l'asserzione vince chi parla meglio è ambigua, è molto ambigua. Io capisco perché ti sei incazzata così tanto tu prima. Non perché può tu... vincere chi parla meglio. Cosa? Non può vincere. Perché deve vincere il giusto. Però. Vince chi dice cose nere, non vince chi dice meglio. Vince chi? Vince le cose vere. Chi dice cose nere. Ma cos'è? Cioè? E tu sei tu continui a essere convinta. Facciamo l'esempio pratico. Tu continui a essere convinta che ti sia la verità. No, sono convinta che uno la debba cercare. No, ma io capisco. Non puoi dubitare che non ci sia per qualsiasi. Cosa significa? No, ha ragione. Ok, ha ragione. Diciamo, si identifica, diciamo, si prende il successo in una discussione come va. Allora, io concordo con chi, per esempio te, se non ho capito male, ti richiami di nome, non proprio Alice. Alice. Concordo con Alice, che c'è un bellissimo nome, no, sai anche perché. Bruttissimo film, però. Il film è brutto, ma il personaggio continua a essere una novità, perché Carol è un... perché la Alice di Carol è uno dei nostri personaggi preferiti, i miei e anche di alcuni miei amici. Quindi perché c'è Alice in Water. Sì, il film di Barton, ma detto non credo. Allora, concordo con lei quando, come dire, si dice, tu hai detto retorica, giusto? Tu hai detto il termine retorica. Ok, allora, c'è una, come dire, accezione negativa del termine retorica. Il linguaggio, fra le altre cose, è certo, c'ha questo, è molto ambiguo, perché può obiettivamente mascherare una confusione di idee, o addirittura può fornire argomenti a sostegno di una tesi, allora tu dici sbagliata o falsa, io dico moralmente inaccettabile, perché ci arriveremo, perché se leggete i Bagnets poi, io credo che sia disastroso legare, io credo che sia giustissimo che uno di noi, io lo faccio nella vita e amo quelli che fanno questa cosa, io ho delle posizioni, ho delle cose in cui credo, combatto per quelle, ma sono, non voglio legarle a una idea di verità. Non voglio dire io combatto per questa cosa perché è vero. Non voglio dire io combatto per questo, io credo in questo perché sono convinto che sia la verità. Io non combatto contro il capitalismo per quel poco che possono, insomma, uno può anche dirmi che non combatto per nulla, ma insomma, io mi illudo di combattere contro il capitalismo, non perché credo che sia vero che ci sia qualcosa di meglio del capitalismo, ma perché credo che le conseguenze del capitalismo sulla vita contemporanea siano moralmente, dal mio punto di vista, eticamente riprovevoli, non sono giuste, è la giustizia, non la verità che conta per me. Io combatto per le cose giuste, non me ne frega nulla che siano vere, perché siccome non sono convinto che la verità non esiste, la verità, per esempio, supponiamo che io sia convinto che esistono, che c'è una divisione in classi fondamentale nella società, tra chi ha i mezzi di produzione e chi, diciamo, non ce l'ha. Allora, io ti dirò che la verità di chi ha i mezzi di produzione sarà sempre diversa dalla verità di chi non li ha. Come faccio a scegliere io? Perché sto dalla parte di chi non ha i mezzi? Perché io non li ho, certo, perché io non li ho. Ma supponiamo che anche se io li avessi un po', probabilmente sarei lo stesso da quella parte lì, perché ho una testa fatta in questo modo. Ce l'ho perché quella è la parte della verità. No, perché sono eticamente, è una roba diversa. Su questo, diciamo, Kant ha fatto il primo passo, però poi non ha fatto quello, diciamo, definitivo, ma ha fatto bene a staccare. Kant è stato il primo che ha staccato la morale, insomma, le scelte etiche dalle scelte. Gli imperativi di Kant sono indimostrabili. È indimostrabile che devi fare il bene, che è indimostrabile che devi essere giusto. Devi essere giusto per un'altra questione. È autonoma, devi decidere ciò. Allora, se io vedo l'esistenza di due discorsi, due blocchi di interessi, due comportamenti, due o anche più di due, ma insomma, raggruppabili, diversi dentro la società, mi schiererò da una parte o dall'altra, non perché quella parte ha la verità e l'altra non ce l'ha, perché io sono convinto che non ci sia nessuna verità dimostrabile, che non sia dimostrabile che esista alcuna verità. Quindi non è su quel piano, se io mi infoglio su quella cosa, arriverà sempre l'altra a dirmi ma guarda che in realtà e mi dimostrerà dei pezzettini di cosa. Quindi io personalmente, faccio una scelta etica sganciata dalla dalla scelta ontologica o da quella epistemologica. Non mi metto su quei due piani lì, perché so che, perché so che sono friabili, perché non c'è nessun fondamento su cui posso, come dire, costruire. È la mia libertà. Io mi considero un essere libero e autonomo, libero di scegliere, e sceglierò da che parte stare, che battaglia fare, quali ricerche culturali e scientifiche fare, non sulla base del valore della verità, ma sulla base del valore della giustizia, credo che per le cose che sono più giuste fare, ma non credo che giustizia sia collegata con verità. Sì, ma che giustizia è un terreno friabile quanto la verità, no, se lei basa le sue scelte sull'idea di giustizia, no, come basarle? Cioè, allora cosa è giusto? Definisca. Oh, cosa è giusto? Sulla giustizia dirò la stessa cosa che dico sulla verità. Non esiste una. Certo. Allora non può basare le sue scelte sulla giustizia, se non. Come non posso basare? Posso basare le mie scelte sulla mia auto, sull'autocoscienza della mia libertà. Io mi sento libero di scegliere da che parte stare e scelgo. Da che parte stare sulla base dei valori che io considero giusti, certo, io e quelli come me, se trovo gente poi che è d'accordo con me, li diciamo considero giusti, certo, con cui si condivido, però sono anche disposto, non è la mia scelta, però sono anche disposto a rispettare colui che fa una scelta di questo tipo, anche isolatamente, che per esempio, che non abbia voglia di associarsi con altri, voglia fare battaglie soltanto lui. Se lo fa in maniera convinta, cioè se lo basa, se non trucca le carte, cioè se non fa come l'universalista che mi dice io faccio le cose perché queste sono quelle uguali a tutti, perché questo è indimostrabile. Non solo è indimostrabile, ma, cosa ancora, come dire, peggiore, ha delle conseguenze eticamente errate. Se tu fai caso, tutti i comportamenti, o la stragrande maggioranza dei comportamenti eticamente riprovevoli, o che hanno, da un punto di vista, diciamo, terra a terra, che hanno provocato sofferenze, danni, morti ad altri esseri umani, sono quasi sempre basate su quella roba lì. Esiste una verità universale. Le guerre di religione. Le guerre di religione non sono guerre basate sulla presunzione che quello che comincia a fare la guerra, quando l'Europa si divise tra cattolici e protestanti, ognuna delle due parti era convinta di rappresentare, di avere e di portare avanti una verità universale e assoluta, giusto o no? Allora, se tu ti metti sulle... Non è perché esiste l'idea... Cioè, di Dio che combatte le... Ovviamente dietro, allora, non siamo materialisti, che... non siamo materialisti troppo, eh? È vero che c'erano interessi economici, eccetera, ma... No, però in campagna si trattò proprio di una contrapposizione su due verità che si affrontavano, su due pretese verità universali e assolute che si affrontavano. La Chiesa Cattolica di Roma è l'unica vera erede dell'azione di Cristo sulla terra, soltanto le comunità di liberi credenti possono rappresentare la continuità di Cristo sulla terra. Queste due tesi di fondo fondamentali tra protestantismo e cattolicismo insanguinarono l'Europa per un secolo e mezzo. Come due secoli prima la contrapposizione feroce, universalista e assolutista fra cristianesimo e islam aveva insanguinato il Medio Oriente, le crociate. Poi dietro c'erano anche interessi economici, è ovvio. Che erano uomini che facevano... Sì, non è perché credevano... Sono sempre gli uomini, lo so che sono sempre gli uomini, però sono uomini che hanno, che parlano, che hanno una produzione linguistica, che pensano, che scrivono, che fanno bolle papali, che organizzano stati, che armano uomini, lo so bene che sono uomini. Non sto parlando male delle idee, sto parlando male degli uomini, non sto parlando male dell'universalismo, sto parlando male dei qualcosa di assoluto che ti porta quello, a fare le guerre. Come no? No? Perché tu non accetti l'altro facendo così. Cioè tu non, dicendo che tutta l'unica cosa in cui tu credi è quella, e quella è, tu non riesci a ascoltare un'altra cosa. No, guarda che c'è un'altra cosa, perché tu sei fermo nelle tue idee. Non è vero che chi crede in una cosa non riesce. Beh, ma quanta gente ascoltare le altre, dai. No, certo, ma allora vuol dire che non è così, allora vuol dire che non ci crede tanto. Perché nel momento in cui non parlare, poi credere sì, ma non dire che debbano crederci tutti. Ma scusami, se non sono crediti tutti, allora allora non è universalista. Chi dice che non siano credere tutti non è universalista. Chi dice universalista dire questo e questo e questo per tutti. Però no, quando un universalista dice. Dice? Esiste la verità, sì. Ok, io sono universalista. Sì. Punto. Sì, esiste la verità. Vorrai ben convincere gli altri della verità. No, perché non c'è. Cioè, esiste la verità, sì. Convinco non è ingenuità, non sa fuori gli altri, certo, vuole, esatto, vuole iniziare in un certo modo anche a cuore gli altri, troppo. A cuore gli altri, gioco delle parti differenti, proprio perché ha a cuore gli altri. L'universalista è pericoloso ed è dannoso perché per forza di cose, perché tenderà a volere che anche gli altri si uniformino. Se tu sei convinta che esiste una asserzione che ha validità per tutti i tempi, tutte le culture, eccetera, è ovvio che vorrai imporla anche agli altri. Non, cioè, se uno ti dice no, guarda che non è così, ti incazzerai perché dici, oh, cazzo, questa tu dici, esiste Dio. Se tu sei convinta che Dio esista, sei convinta davvero e che abbia le caratteristiche del Dio descritto, è un pochino diverso quello del Vecchio e del Nuovo Testamento, ma supponiamo che tu riesca a conciliare e dire esiste quel Dio che insieme è terribilmente vendicativo e butta fuori, eccetera, però è anche buono e ama tutto, quel Dio lì, insomma, se sei convinta che esiste, arriva un altro che crede in realtà nello stesso Dio, però ci crede sulla base di un altro libro che si chiama Corano, no? Se tu sei convinta che la Bibbia sia portatrice di verità assolute, per forza di cose prima o poi lo massacrerai l'altro, lo massacrerai da vari punti di vista, in certi momenti storici con diciamo, le armi, in altri momenti lo strozzerai economicamente, ma farai così, non ci sono cristi, farai così, se sei davvero universalista, se no vuol dire che quelle sono le tue convinzioni e nessuno come dire, te le può togliere. Se uno è convinto, dice, ma io credo alla presenza di Dio perché Dio è un mio imperativo interiore, morale, eccetera, eccetera, bene. Però nel momento in cui non pretende che ci creda pure io, vuol dire che non crede in Dio davvero, che non crede in quel Dio lì, nell'idea di Dio universale assoluta. E Dio non può essere che universale e assoluto, cioè, no? Se non fosse universale e assoluto, non sarebbe Dio, sarebbe Zeus, sarebbe Shiva. Il politeismo non c'ha queste cose qua, ma il monoteismo dentro di sé c'ha questa malattia, è un cancro. Il monoteismo è un cancro intellettuale dell'umanità. È così che ha avuto moltissimo successo, su questo non ci piove, perché per fortuna che ci sono i buddisti, dal punto di vista religioso, diciamo, ci salvano. Perché non parlano di Dio, quindi universalisti pure loro, figuriamoci, mica no. Però, cioè, perlomeno, sono contento che abbiate discusso. Facciamo un po' di pausa?